mattini d'estate, il sole che filtra vivace e arriva perfino anche qui, qui da noi, nel profondo blu. Guardo intorno e vedo gli amici che ballano e ridono. Ogni tanto qualcuno ti sfiora e ti senti felice anche tu, qui da noi, nel profondo blu. E la vita mi sembra speciale, il mio mondo mi sembra ideale, e mi sento felice davvero, qui da noi, nel profondo blu. Voglio uscire da questo mio mondo, arrivare lontano da qui, dove senti il rumore dell'uomo. Ti saluto, profondo blu. Perché il sole arriva davvero e di notte le stelle nel cielo, con la luna che fa da scenario, il mare è un grande teatro e sul palco insieme cantiamo lontani dal profondo blu. Cosa in acqua che brilla, ma gli amici scappano e gridano, voglio tornare nel profondo blu.